Continuiamo il nostro affascinante viaggio per avvicinarci all'antica scienza dell'alchimia, cominciando col dire che è difficile stabilire con precisione le sue origini. Il termine alchimia lo troviamo sia in fonti arabe, greche, egiziane e addirittura cinesi. Dalla stessa radice, chimia, deriva anche la parola chimica, che tanti ritengono essere l'evoluzione stessa dell'alchimia. Inoltre, un famoso studioso e cabalista, Gershom Scholem, ritiene che il termine chimia abbia in realtà la sua prima origine nella cabala ebraica e significhi ciò che viene da Dio. Ma al di là del significato etimologico, ci troviamo di fronte ad un antico sistema filosofico esoterico che riesce ad unire in maniera armonica elementi di svariato tipo, dalla chimica alla fisica, dall'astrologia all'arte, dalla medicina al misticismo. Gli obiettivi che si pone sono essenzialmente quelli di conquistare l'onniscienza, trovare rimedio per curare tutte le malattie, l'immortalità, creando la panacea universale ed infine quella che l'ha resa famosa, trasmutare i metalli in oro. Per raggiungere questi obiettivi era necessaria la pietra filosofale, ma attenzione però, non trattasi necessariamente di una pietra, ma di una meglio non identificata sostanza che potrebbe essere anche una polvere, un liquido. Secondo alcuni si tratterebbe addirittura di una pianta, la Doxa moscatellina. Un'affascinante descrizione della pietra filosofale possiamo trovarla in un sonetto del 1300, scritto in lingua volgare da Cecco d'Ascoli, che recita così: chi solvere non sa né assottigliare corpo non tocchi, né argento vivo per chi non può lo fisso et volativo tenere, chi non sa de duo un fare. Fatelo dunque stretto abbracciare con acqua viva e sal dissolutivo. Tene bene coque piane sì che si è privo della terra mama la qual lo fa celare. Allora vedrai fuggire la morte abscura e ritornar lo sole lucente e bello con molti fiori ornato in sua figura. Questa è la pietra, questo è quello degli filosofi l'antica scrittura che sull'incudine batte lo martello. È vero. In un primo tempo gli alchimisti si concentrarono nella ricerca dell'elisir della giovinezza, della pietra filosofale, credendo che fossero entità sé stanti. Molti alchimisti interpretavano la purificazione dell'anima in connessione con la trasmutazione del piombo in oro, e per questo venivano additati come maghi, incantatori, spesso perseguitati per le loro pratiche, in quanto entravano in contrasto con i dogmi della Chiesa. Lo stesso Cecco d'Ascoli, astrologo, filosofo e poi alchimista, autore del sonetto letto, fu condannato nel 1324 da Fra Lamberto da Ciangulo dell'ordine dei frati predicatori ad essere arso vivo come eretico. Vi leggo un pezzetto della sentenza. Frate Accursio dell'ordine dei frati minori, inquisitore a Firenze, visto il processo che gli è stato mandato al 17 luglio 1327 da frate Lamberto da Bologna contro maestro Cecco d'Ascoli, che l'ha dichiarato eretico e lo ha consegnato al tribunale secolare del vicario ducale, onde essero assoggettato alle pene che gli sono dovute, ha condannato il libro di astrologia di cui è autore ed un altro in lingua volgare, intitolato La Cerba, da cui è tratto il sonetto che abbiamo letto. Ha decretato che sarebbero bruciati ed ha colpito da scomunica tutti quelli che possedessero tali o simili libri. Nel XIV secolo, Papa Giovanni XXII bandì l'alchimia. Questo portò a una forte diminuzione degli alchimisti. Tuttavia, tanti continuarono i loro esperimenti e tra tutti emerse Nicolas Flamel, colui che, dopo aver tradotto il mitico libro di Abramo, l'ebreo, sarebbe riuscito a fabbricare la pietra filosofale. Infatti, dopo la sua morte nel 1419, la sua tomba fu trovata vuota e molti sostennero che il suo corpo non era mai stato deposto là, accrescendo il fascino e il mistero sulla figura di questo personaggio. Dopo il periodo oscuro della Chiesa, con l'Inquisizione, le crociate, finalmente cominciò a farsi strada, grazie anche al movimento francescano, una nuova visione del mondo, un'apertura verso altri popoli e altre credenze. E il sapere antico fu riscoperto come un valore, a prescindere dalla sua origine, e si fece strada l'idea che tutte le conoscenze fossero utili per vivere meglio. Finalmente l'alchimia iniziò ad essere riconosciuta come scienza utile, fino ad essere però quasi del tutto abbandonata con la nascita del metodo scientifico, ma ancora oggi conserva il suo fascino.